Costruire la propria casa virtuale e conservare al suo interno i ricordi chiave della vita. Le foto, la musica, i video, ma anche i documenti lavorativi ed i file più riservati. Condividere questi contenuti con i propri amici o con i colleghi, scegliendo il livello di privacy preferito. My Memory Home dice di essere il primo emotional network. Un po' Facebook e un po' Twitter, ma anche un po' MySpace. Guarda un pubblico di artisti amanti del cinema e si propone come editore cross-mediale. A differenza dei social network d'oltreoceano, si paga un abbonamento e dopo 30 giorni bisogna fornire un documento per la privacy e perché i contenuti devono avere nome e cognome. Allora, cosa ne pensa? Nel senso, io sono venuto alla vostra conferenza stampa la scorsa settimana e ho trovato all'inizio, alle prime battute mi sono detto, vabbè, ma insomma questo è un'idea un po' furbetta per... un'idea un po' furbetta per un nuovo Facebook, un Facebook italiano, l'idea della casa è molto carina, tra l'altro andate a vedere sul video, è anche molto interessante la possibilità di appiccicare sulle pareti ricordi, contenuti, poi loro li utilizzano per creare dei contenuti editoriali, per cui, come abbiamo scritto, voi siete anche un editore. Non è proprio corretto, nel senso che noi non possiamo utilizzare le cose che stanno dentro la casa privata, proprio perché scindiamo in maniera netta ciò che è privato da ciò che è pubblico.